Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Attenzione, canale 10, cambio. Hola. Attenzione, 10, cambio. C'è nessuno in ascolto, blecco, blecco, ora, cambio. Blecco, blecco, berivella, blecco, berivella, mi senti? C'è nessuno, blecco, blecco, c'è nessuno in ascolto sul 10 in AM. Qua capopattuglia chiama Charlie, rispondi, blecco, blecco. Blecco, blecco, c'è nessuno al 10, al 10 modulazione, scappati di casa. Com'è, com'è, blecco, blecco? Attenzione, attenzione, canale 10, c'è nessuno in ascolto, blecco, blecco. Blecco, blecco, c'è nessuno in ascolto, sul 10, ora cambio. Blecco, blecco, ma tutta Maria dei Vipi si da by Danny, ora. Blecco, blecco, ora, cambio, cambio. Ma tutti a Maria dei Vipi si da by Danny. Prima poi arriva la bufera, prima poi arriva la bufera. Blecco, blecco, mi sentite? C'è nessuno, cambio. Blecco, blecco, c'è nessuno, blecco, blecco. Buonasera, buon pomeriggio, qua San Primo, modulazione su 10. Mi ricevi, me lo dai un radio segnale? Dai, vieni avanti. Cappa, cappa, come sto uscendo, come mi senti, bene? Radio 4 e segnale 9. Diciamo discreto. Più o meno vai bene. Andare, com'è il tempo lì? Zona di modulazione? Com'è il tempo lì? Qua è buono, zona di modulazione? È buono, so, di modulazione, cosa c'è di modulazione? Non so. Zona, zona, da dove stai trasmettendo? Cappa Roge, da Sorso, Golfo dell'Asinara, San Pietro, Golfo dell'Asinara, Sorso, tu dove sei? Sassari, Sassari. Nome? Gianni, Gianni, affermativo, Golfa, Indias, eccetera, eccetera, eccetera, Papa Gianc. Che auguri, vabbè, Antonio da questa parte, dai, ci sentiamo. Ciao a tu, grazie dell'informazione, segnale, grazie, alle prossime capparogge, ciao ciao. Pedivella, Pedivella, ci sei Pedivella, mi senti? Champè! Cappa Roger, avanti amico! Attenzione, Champè, Champè, Champè! Cappa Roger, mi senti? Ora, ora, cambio! Non ti sento amico, non ti sento, deve essere c'è qualche problema al microfono, ma sì, buono lo so. Io non ti copio a volte. Danilo, Danilo, ma sei tu Danilo, rispondi, cappa. Qua San Pi che parla, attenzione amico, mi senti? Ma mi senti?